il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Questa è la classifica di quelli che hanno scritto libri che ne hanno venduti di più. Allora, al primo posto, diciamo, autori vari, autori ignoti, il libro, la Bibbia. Secondo posto, William Shakespeare. Terzo posto, stiamo parlando di libri più letti e venduti di tutti i tempi, terzo posto, Agatha Christie, che ha rivoluzionato la storia dei gialli e del romanzo giallo, per esempio elaborando una vera e propria strategia narrativa, cioè il tema della camera chiusa, cioè persone che temporaneamente rimangono bloccate, intrappolate in un luogo senza vie d'uscita, una stanza o il vagone di un treno, e lei presenta uno a uno i suoi personaggi, poi uno di loro viene ucciso e poi fa capire al lettore che le circostanze sono tali per cui è per forza uno di loro l'assassino e non si sa chi. E questo lo scoprirà il detective di turno dopo vari interrogatori. Quindi opere sulle piccole comunità intrappolate, Assassino sull'Oriente Express, Poirot sul Nilo e tante altre. Pensate che stiamo parlando di una donna che ha sempre detto che non aveva l'ambizione di diventare una scrittrice. Ha iniziato per una sfida con la sorella, che una volta le disse una frase tipo: non sei in grado di scrivere un romanzo giallo, e per ripicca questa sorella ha innescato quella che sarebbe diventata la più grande scrittrice di gialli. Una scrittrice che ha dato vita a 66 romanzi, 14 raccolte di racconti, e di cui quest'anno si celebrano peraltro i 125 anni di anniversario, perché la signora Agatha Christie, nata come Agatha Mary Clarissa Miller, nasce in Inghilterra da padre americano, come racconta suo nipote Matthew Pritchard. Nacque nel 1890 a Torquay, nel Devon meridionale, in una residenza chiamata Ashfield, dove poi visse con i suoi genitori Fred e Clara. Fred era considerato da tutti un uomo molto cordiale, e penso che questo influisse sulla vita familiare, che infatti era tranquilla, pacifica e idilliaca per la giovane talentuosa ed entusiasta Agatha. Fred e Clara erano la roccia sulla quale si fondava tutta la sua vita. Penso che ognuno di noi abbia bisogno, in giovane età, di avere qualcuno su cui contare, in cui poter confidare, e penso che Clara rappresentasse per lei tutte queste cose. E fu proprio lei ad instillare alla figlia, fin da bambina, l'amore per la lettura e la scrittura, attorno al quale in seguito ruotò l'intera vita di Agatha. E sì, Agatha infatti vive in una famiglia dove la lettura è veramente importante. Impara a leggere da sola a 5 anni, legge qualsiasi cosa abbia di fronte. La madre, che ama raccontare storie fantastiche, le ripete sempre un concetto semplice: più leggi e più saprai scrivere bene. E così lei inventa amici immaginari, gioca con i suoi animali, legge, scrive fin da piccola poesie, quando ancora in tenera età, e quando la famiglia si trasferisce per un po' a Parigi. E lei della sua infanzia scriverà così: una delle cose più fortunate che possono accadere nella vita è quella di avere un'infanzia felice. Io ho avuto un'infanzia molto felice. Quasi tutte le grandi carriere però hanno anche un momento nel quale arriva uno shock, un brutto colpo dal quale si reagisce magari con un colpo d'ala, come amiamo dire noi. Questo nella vita di Agatha Christie avviene a 11 anni, perché il padre muore per un attacco di cuore e lei rimane orfana, però ha una madre molto presente. Avrebbe potuto avere una normale infanzia borghese se non fosse per il fatto che lei a scuola non ci andò mai, perché della sua educazione scolastica si incarica sempre direttamente la madre Clara e oppure le varie governanti di casa. La madre ama raccontare alla figlia storie fantasiose e a volte, magari quando lei ha l'influenza e deve stare a letto, la invita a scriverle queste storie su carta. In realtà Agatha sogna di diventare una cantante lirica, studia canto, pianoforte, non pensa a diventare una scrittrice, eppure quando ha 11 anni fa già una specie di debutto nella carta stampata con una poesia che viene pubblicata su un giornale locale di Londra, e nella tarda adolescenza scrive anche dei racconti brevi e altre poesie che saranno pubblicate nella rivista The Poetry Review. Poi diventa una ragazza, scopre la vita in società, le piace stare in mezzo alla gente. Per esempio nel 1910, quindi a 20 anni, passa alcuni mesi al Cairo, va alle feste, ama più gli abiti da sera, dei siti archeologici, anche se poi invece l'archeologia tornerà nella sua vita, ma molto più avanti. Quando torna in Inghilterra riceve molte proposte di matrimonio. Nel 1912 conosce però Archie Christie, che è un aviatore che diventerà uno dei primi piloti del Royal Flying Corps. In quel periodo lei sta lavorando all'ospedale di Torquay e lì impara molto su veleni medicinali, che è una cosa che le tornerà molto utile quando deciderà poi di scrivere romanzi gialli. E il 24 dicembre 1914 sposa il suo Archibald, la cerimonia è semplice, i due poi si devono dividere e solo nel 18, a guerra finita, iniziano la loro vera vita coniugale. Lui trova un lavoro nella City, nel 19 affittano un appartamento a Londra e qui nasce la loro unica figlia, che si chiama Rosalind. Archie è un uomo molto coraggioso, mentre lei ama la vita sociale. Quando il marito ottiene un lavoro nella promozione della British Empire Exhibition nel 23, lei parte assieme a lui per un viaggio attorno al mondo, nei territori dell'impero coloniale britannico, e nello stesso anno firma un contratto con una rivista. Deve scrivere 12 racconti che abbiano come protagonista Hercule Poirot. Viaggiano a lungo dall'Australia al Sudafrica, dal Canada all'Inghilterra, però quando tornano in patria la loro relazione comincia a incrinarsi. Lei rimane viva la passione per i gialli e la scrittura. Intanto nel 24 pubblica finalmente con il suo nome il suo primo romanzo giallo, Poirot a Styles Court. Il falco e il gabbiano. Siamo arrivati al 1924 e Agatha Christie, che è la protagonista della nostra puntata, a 34 anni pubblica finalmente il suo primo romanzo giallo a suo nome, Poirot a Styles Court. E questo è l'incipit, l'inizio. Il grande interesse suscitato nel pubblico da quello che a suo tempo fu battezzato il caso Styles è ormai scemato. Ciò nonostante, data la risonanza che ha avuto, sia il mio amico Poirot, sia la famiglia interessata mi hanno pregato di scrivere il resoconto dell'intera vicenda. In questo modo si spera di mettere a tacere i pettegolezzi che ancora oggi capita di ascoltare. E pensate, l'idea di questo libro, Agatha, era venuta per rispondere alla provocazione di sua sorella Madge, che aveva fatto una scommessa con lei. Secondo me, disse la sorella, tu non sarai mai capace di scrivere un buon giallo. Così, anche per combattere la noia, Agatha scrive il romanzo con una trama legata a quello che aveva visto lavorando in ospedale come assistente, cioè a contatto con ogni sorta di veleno. Una delle frasi di Poirot in questo libro è piuttosto inquietante. Può capitare a chiunque di avere per amico un assassino. Ma è del 1926 che dalla sua macchina da scrivere emerge il primo vero capolavoro di Agatha Christie, L'assassinio di Roger e Croyd, altrimenti tradotto col titolo Dalle 9 alle 10, uno tra i romanzi gialli più famosi e ingegnosi dell'intera sua opera. E come a volte succede, il grande successo non unisce Agatha e Archie, tanto che lui, che nel frattempo si dedica molto al golf, trova proprio sul green una giovane ragazza che gli fa perdere la testa, tanto che abbandona Agatha di colpo, ammette la relazione con questa ragazza Nancy Neal e dice che vuole sposarla. E Nancy Neal evidentemente, insomma, è anche molto più carina della un po' usurata Agatha, e che in quel periodo peraltro perde anche la madre. Insomma, il colpo doppio è veramente troppo per lei. Lei ne soffre moltissimo, tanto che si ammala e improvvisamente scompare, letteralmente scompare dalla sua casa. La sua auto viene ritrovata molto distante. E il caso desta grande scalpore, ne parlano tutti i giornali, pubblicano foto, avvisi, tutti la cercano. Si apre un caso che, come dire, oggi sarebbe in apertura a chi l'ha visto. Dopo una decina di giorni dalla sua scomparsa viene trovata in un hotel a Harrogate, che è una località termale dell'Inghilterra settentrionale. Lei soggiorna lì lasciando nel registro dei clienti il nome Teresa Neal, che è il cognome della amante del marito, e dice che non sa spiegare perché si trova lì. Soffre di amnesia, non ricorda nulla di se stessa. Secondo la versione ufficiale data dal marito, lei è in preda a un'amnesia dovuta alla perdita della madre. Però secondo alcuni c'è un giallo nel giallo, e in effetti alcune biografie raccontano alcuni lati oscuri della vicenda. Perché pensateci bene, il 4 dicembre mattina l'auto di Agatha viene trovata in folle con i freni non inseriti in fondo a un dirupo di circa 300 metri, quindi un omicidio, un suicidio, qualcuno ha voluto far pensare che Agatha fosse morta in quella macchina, e forse una messa in scena, magari architettata proprio da lei per incolpare il marito dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere della moglie. In fondo lei avrebbe avuto motivi per farlo, perché insomma le donne quando vengono lasciate così a volte si arrabbiano anche un po'. Voleva vendicarsi del marito. È stato proprio lui a dirle che si è innamorato di Nancy sui campi da golf, proprio nei momenti in cui lei rimaneva a casa a scrivere. Insomma, la verità non la sapremo mai, perché Agatha non ne parlerà mai più di questa vicenda. Quello che sappiamo è che si sottopone a una breve cura psichiatrica, poi nel 26 parte per le isole Canarie con la figlia Rosalind. Soffre di depressione, spera che il marito torni sui suoi passi, però alla fine cede, anche perché non puoi tornare sui passi di una che fa anche queste stranezze. E insomma, 2 anni dopo finalmente Archie ottiene il tanto sospirato divorzio. Intanto continua a scrivere. In quel momento, diciamo, le opere non sono eccezionali, fino a quando non parte per un viaggio in Oriente verso Baghdad. È un viaggio in treno, attenzione, però è anche l'inizio di qualcosa. Perché mentre è seduta in uno dei vagoni le viene l'ispirazione per Assassino sull'Oriente Express, che è considerato uno dei suoi capolavori. Ha tra i protagonisti il detective Hercule Poirot. Il romanzo prima viene pubblicato a puntate nell'estate del 33, poi viene raccolto in un libro negli anni e tradotto in tutte le lingue del mondo. Viene reso ancora più celebre dal film del 74 con la regia di Sidney Lumet. Se vuole riservarmi un posto per questa notte sull'Orient Express. Qualcuno ha visto chi sta cercando di salire sul treno? Lui e il signor Poirot dormirà qui stanotte. Questa notte? Uno dei nostri passeggeri è stato... L'hanno ucciso. È stato assassinato. L'assassino si trova ancora in mezzo a noi. Da quale scompartimento proveniva? Non lo so. Deve darmi una risposta valida. Questo è un delitto premeditato. Lei non sa niente. Devo dirvi cosa sono. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia della immensa giallista Agatha Christie, la donna dei grandi enigmi, sia i grandi enigmi che lei ha scritto, con i quali ha conquistato milioni di lettori, e solo Shakespeare ha venduto più di lei, e sia alcuni enigmi invece della sua vita personale. E intanto siamo al romanzo clou della sua carriera, forse, L'assassino sull'Oriente Express, che viene scritto durante un soggiorno a Istanbul nella stanza 411 del Pera Palace Hotel. È un albergo che era stato costruito a fine 800 proprio per soddisfare le esigenze dei passeggeri dell'Oriente Express, che avevano bisogno di trovare nell'ultima tappa del viaggio, un albergo di lusso che offrisse l'eleganza e il comfort a cui erano abituati in Europa. E lei arrivava da questo viaggio ispiratore, appunto, sull'Oriente Express. E in questo albergo sono passati grandi personaggi, da Hemingway a Re Edoardo VIII, l'imperatore d'Austria-Ungheria Francesco Giuseppe, a Hitchcock, a Greta Garbo, Jacqueline Kennedy. E oggi, se avete del tempo e magari molti soldi, potete dormire in una delle stanze in cui hanno soggiornato anche questi miti del Novecento. Quel viaggio in treno dove inventerà la storia è davvero un momento di svolta per Agatha Christie, perché le fa conoscere l'uomo che diventerà il suo secondo marito. E parlo dell'archeologo. Vi avevo detto che c'era una digressione sull'archeologia in arrivo. Max Mallowan, di molti anni più giovane di lei, lo sposerà poco tempo dopo, nel 30, e un giorno scriverà una frase molto spiritosa, uno dei suoi aforismi. Un archeologo è il miglior marito che una donna possa avere. Più lei diventa vecchia, più lui si interessa a lei. Beh, una frase veramente spiritosa, nella quale lei, come dire, sdrammatizza la sua propensione per questo archeologo un po' toy boy. Comunque lei decide di mantenere il cognome Christie, intanto perché è il suo marchio di fabbrica e poi anche perché per lei, tutto sommato, la famiglia è tutto. Ce lo racconta anche il nipote Matthew Pritchard. I think family all through her life. Penso che nel corso della sua intera esistenza la famiglia sia stata cruciale per lei. Rappresentò un inizio di vita idilliaco, e quando il suo primo marito la lasciò e sua madre morì, lei cercò disperatamente un modo di ricreare una famiglia. Certamente al tempo lei aveva sua figlia, mia madre, e dopo i primi 4-5 anni le nubi si diradarono. Agatha incontrò e poi sposò Max, che era un archeologo molto famoso. Così per lei iniziò una nuova fase. Iniziarono i viaggi in Medio Oriente, dove si trasferirono anche i suoi romanzi. Dalle ambientazioni domestiche di Miss Marple e Poirot di fine anni 20 e inizio 30, si giunse a location più esotiche. E poi il nuovo marito era perfetto per lei. Calmo, concentrato sulla sua professione, esattamente come lei. E insieme vissero una vita molto felice con la figlia Rosalind. Nuovamente sposata, inizia la stesura de La morte nel villaggio, il primo romanzo con una nuova protagonista, Miss Marple, che è un altro mitico personaggio nato dalla fantasia di Agatha Christie. Comparirà in numerosi racconti, in una dozzina di romanzi. Miss Marple è una vecchietta tranquilla, assennata, che vive in un paese in apparenza tranquillo anch'esso, il paese di St. Mary Mead. È fragile di aspetto, però è esperta in criminologia e in natura umana, così alterna l'attività investigativa al lavoro a maglia. Jane Marple diventa uno dei personaggi chiave proprio dei gialli del Novecento. Con la sua nuova vita, intanto, Agatha Christie scrive 2 o 3 libri all'anno. Le atmosfere vissute in Medio Oriente tornano spesso nei racconti, come Morte sul Nilo del 36, Omicidio in Mesopotamia, Appuntamento con la morte, Il mondo in pericolo e in molti altri. Cominciano a essere parecchi i film tratti dai suoi gialli, ma Assassinio sul Nilo è quello che ha più successo e esce nel 78 e vincerà l'Oscar per i migliori costumi. E la trama parla di un assassino che colpisce a bordo del lussuoso battello Carnac in crociera e dell'investigatore Poirot che deve fare chiarezza sul mistero. Nel cast c'è Peter Ustinov, ci sono David Niven, Angela Lansbury, che poi metterà i panni della famosissima serie TV La signora in giallo, La signora Fletcher, e poi Mia Farrow, Bette Davis. Sentiamo un breve stralcio di questo film. Dove preferisce prendere il tè? Servilo in salotto. Oui, mademoiselle. Andiamo di sopra a rinfrescarci un po'. Ma che cos'ha, Louise? C'è di mezzo un uomo, come al solito. Lei voleva sposarsi. Un egiziano, figurati. Non sapeva assolutamente nulla di lui, così io ho preso informazioni. E lui era già sposato. Quindi tu ti sei opposta? Ma certo. Le ho detto che non le avrei mai dato una dote e naturalmente è proprio quella che lui cercava. Gli uomini. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il marito di Agatha, Max, ottiene un lavoro al Cairo. Lei rimane in Inghilterra, dove continua a dedicarsi alla scrittura, ma anche al volontariato presso il dispensario dello University College Hospital di Londra. Intanto la famiglia si allarga perché sua figlia Rosalind, che ha sposato Hubert Pritchard nel 1943, dà alla luce un figlio. Agatha si ritrova dalla parte della nonna affettuosa e molto presente. In fondo lei è sola, il marito è lontano, e lo spazio e il tempo per l'intrattenimento in tempi di guerra non c'è, quindi insomma si mette a scrivere sempre più spesso e si mette di fronte alla sua macchina da scrivere, e in quegli anni sono anni molto prolifici, fatti di concentrazione. Max, il marito, le manca. Con l'intrattenimento esterno molto più limitato, lei scrive, pubblica classici come Delitto sotto il sole, 10 piccoli indiani, definito dal Time uno dei più ingegnosi gialli di ogni tempo. In effetti questo è un romanzo molto originale, perché qui manca la figura dell'investigatore. Ognuno dei protagonisti ricopre contemporaneamente il ruolo di investigatore, di sospettato e anche di possibile vittima. 10 persone che non si conoscono ma sono accomunate da un passato inquietante si trovano in una casa misteriosa su un'isola deserta. Un'assurda filastrocca per bambini torna ossessivamente, scandendo come un incubo una serie di omicidi. Ten Little Indians. Eight little Indian boys traveling in Devon. One said he'd stay right there, and then there were seven. Da 10 piccoli indiani viene tratto anche uno dei primi film su romanzi di Agatha Christie. La regia era di George Pollock, uscirà nel 1945. È morto? Sì, è morto. Me ne lasci accertare. Qualcuno l'ha già fatto, dottore. Ne rimangono 6. Non è più un macabro scherzo. Sembra che questo Mr. Owen ci giudichi colpevoli di alcuni delitti. La legge non può punire. Tutto ciò è pazzesco. Ma è il motivo per cui ci ha riuniti qui, per fare giustizia. Io sono convinto che Mr. Owen è qui. E per parlare di Agatha Christie non potevamo non chiamare un uomo che è un po' in bilico tra il rock e il giallo, Luca Crovi, critico rock, ma detto anche il signore in giallo dell'editoria, e il poliziotto buono, insomma, tante cose, saggi sulla letteratura, ne cito solo uno, Noir, istruzioni per l'uso. Buongiorno Luca. Buongiorno Enrico e buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Allora, noi abbiamo quasi finito di raccontare la storia, l'epopea creativa e umana di Agatha Christie, però ci sono tanti segreti, aneddoti sulla vita di Agatha Christie che so che tu sai. Tieni presente che lei era molto diversa da Conan Doyle, che era convinto che le fatine, i maghetti, gli spiriti, i fantasmi esistevano, sì. Però era convinta anche che ci fosse una porta che bisognava tenere aperta sull'aldilà, con la quale si poteva dialogare. La cosa che la faceva arrabbiare era la presenza di medium, di cialtroni che inventavano dei rapporti finti. Spesso nelle sue opere, tipo Un messaggio dagli spiriti, 2 mesi dopo, Un cavallo per la strega, ci sono le sedute spiritiche, e queste sedute servono da una parte per le truffe, dall'altra certo, possono nascondere degli omicidi. Il fatto che lei avesse un rapporto particolare con il Natale, cercasse sempre di uscire con libri a ridosso del Natale, era scaramanzia, emotività o marketing? Allora, diciamo che era tutto questo. Allora, tieni presente che lei da bambina, essendo rimasta orfana da piccola, aveva subito questa lontananza, sì, dal padre, che in realtà era un grande giocatore di cricket e di carte, ed era cresciuto assieme alla mamma in questa grande comunità dove c'erano gli zii e i parenti, e per lei il Natale riguardava il mondo allegro delle feste, certo, del cibo e dello stare in compagnia. Quindi lei, quando doveva regalare una grande emozione ai lettori, la regalava per Natale, scrivendo o delle storie ambientate in quel periodo, ma soprattutto facendo in modo che il suo editore le pubblicasse in quel periodo. Difatti si chiamavano Christmas for Christie. Che tipo di scrittrice era? Aveva orari, luoghi nei quali scriveva? Quando comincia a scrivere queste storie, cercava di scriverle in maniera rilassata. Si metteva in una grande vasca da bagno di quelle di legno, dove metteva i sali, i sali profumati, e poi nel mezzo c'era lo scrittoio dove lei poteva scrivere la torta di mele, come i biscotti, il tè, è una roba proprio contenta, tipo. Stava lì rilassata e scriveva. Quando ha cominciato a essere più famosa, non si poteva permettere di stare 2 o 3 ore in una vasca con l'acqua calda. Allora lei sosteneva che la cosa migliore era pensare alla storia per alcune settimane, poi quando ce l'aveva in testa prenotava un albergo, ma di quelli di quarta categoria, dove c'erano i vicini che magari si accoppiavano in maniera selvaggia, dove c'erano i topi, dove si mangiava male, dove ti trattavano male, così lei nel giro di neanche una settimana, pur di andare via dall'albergo, si sbrigava, era costretta a scrivere velocemente le storie. Era un metodo che funzionava, però tieni presente che quando andava in questi postacci in realtà c'era già andata con un'idea piena, certo, della storia. Beh, esistono le leggende su come lei finì in questi posti, tipo l'albergo di Harrogate, dove la trovavano, ma lei aveva capito che quei posti, come per esempio le stazioni dei treni, erano i posti dove lei poteva recuperare emozioni. Per esempio Miss Marple, non so se lo sapete, il nome deriva dal fatto che lei rimase bloccata per circa 4 ore in un anonimo paesino che si chiamava Marple, dal quale non poteva più ripartire con il treno. Ah, ecco, vedi che c'è sempre. Grazie mille Luca. Grazie a voi e buona lettura. Sul finire degli anni 40 il successo di Agatha Christie è all'apice, mentre diventa di pubblico dominio anche lo pseudonimo di Mary Westmacott, col quale Christie ha firmato altri romanzi rosa. Però alla scrittrice arriva una richiesta piuttosto insolita. Per i suoi 80 anni la regina Mary, la nonna di Elisabetta d'Inghilterra, le chiede come regalo la composizione di una commedia, e Agatha la scrive. Diventa il racconto Tre topolini ciechi, e The Mouse Trap, in realtà in lingua inglese, la trappola per topi. Avrà un così tale successo che verrà replicata dal 52 fino ai nostri giorni. Parliamo di oltre 25.000 repliche. Qualche anno dopo scriverà il romanzo preferito del nipote Matthew Pritchard, è tradotto in Italia con Un delitto avrà luogo, dove è protagonista Miss Marple. Ecco come parla lei della sua investigatrice. Questa è la voce originale di Agatha Christie. Miss Marple si insinuò nella mia vita in modo talmente silenzioso che a malapena mi accorsi del suo arrivo. Non ricordo come venne fuori il suo personaggio. Quando scrissi L'omicidio nel villaggio, non avevo previsto che proprio lei avrebbe agito come detective. Non credo che Miss Marple possa essere una sorta di personificazione di mia nonna. Anche se ammetto che mia nonna, pur essendo una persona assolutamente piacevole, si aspettava sempre il peggio e spesso indovinava, e con un'accuratezza inquietante. All'epoca non avevo alcuna intenzione di continuare a scrivere di Miss Marple per il resto della mia vita e non sapevo di certo che sarebbe diventata una rivale di Hercule Poirot. Nel frattempo passano gli anni e Agatha viene insignita di molti premi, le viene data la massima onorificenza concessa dalla Gran Bretagna a una donna, dama dell'impero britannico. È ormai la scrittrice più letta al mondo, le sue opere sono tradotte in 103 paesi. Nel Natale del 75, nel romanzo Sipario, la Christie decide di fare morire l'ormai celeberrimo investigatore Hercule Poirot con una trombosi coronarica. Poco dopo, il 12 gennaio 76, seppellito Poirot all'età di 85 anni, muore anche lei nella sua villa di campagna a Wallingford. 3 anni dopo, nella stessa tomba del cimitero del villaggio di Cholse nel Oxfordshire, la raggiunge anche il marito, l'archeologo Max Mallowan. Secondo un rapporto dell'UNESCO, Agatha Christie in vita ha guadagnato circa 20 milioni di sterline dell'epoca, cioè più di 23 milioni di euro. Sapete cosa disse un giorno a proposito della sua attività? Sono un'incredibile macchina da salsicce. Penso sempre che dovrà finire presto, poi ne arriva un'altra e sono contenta. E pensare qualcosa di nuovo non è poi tanto difficile. E non lo è stato fino a quel gennaio 76, quando anche lei, la grande Agatha Christie, abbandona la macchina da scrivere per sempre e raggiunge i suoi investigatori e le sue vittime. Di lei Churchill disse: è la donna che dopo Lucrezia Borgia è vissuta più a lungo a contatto col crimine. Agatha Christie, una donna che ci ha fatto spaventare, riflettere, pensare, risolvere enigmi, una mente meravigliosamente contorta che ha creato vittime, carnefici e soprattutto li ha smascherati tutti. E questi sono stati i suoi grandi colpi d'ala. Se voi avete altre idee su quali siano le persone su cui volete che noi si parli, fatelo, scrivete al falco il gabbiano chiocciola radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, oppure venite a trovarmi, a cercare me o tutti noi nei miei e nei nostri social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.